Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi più che mai prestate orecchio, anzi fate di più. Guardate la forma delle vostre orecchie, chiamateci 800 24 00 24. Perché ci vuole orecchio? Bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto. Per fare certe cose ci vuole orecchio. Piccole, grandi, a sventola o ben aderenti al capo, con lobi pronunciati, un po' sfuggenti, le orecchie, indipendentemente dal fatto che ci stiano più o meno bene, che ci piacciono, siano un cruccio, sono strategicamente importanti. Sono infatti organo di senso, sede dell'equilibrio, che permette al nostro corpo di mantenersi in assetto psicofisico e soprattutto ci consente di sentire la vita e di metterci in relazione con lei. Su questo siamo tutti d'accordo? 800 24 00 24 e siete d'accordo con me nel dire che il nostro orecchio assomiglia un po' a un fagiolo? Io sto guardando quelli di Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica. Laura Vanossi non vedo, ma lo so a memoria perché è al telefono. Vediamo però se è d'accordo anche il dottor Maurizio Corradin, che è medico, esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Lefei Resort, in linea con noi. Buongiorno e bentornato, dottor Corradin. Buongiorno a tutti. Allora, per me assomiglia un po' a un fagiolo, volendo, no? Come certo. Forma, ma lei che cosa, secondo lei, secondo la medicina cinese, a chi assomiglia il nostro le nostre orecchie? Allora, prima di risponderti, se mi lasci 30 secondi per fare una piccola spiegazione, il nostro viso, quindi ovviamente orecchie comprese, sono state molto studiate dalla medicina cinese classica, ma devo dire anche tradizionalmente dalla medicina occidentale, fa parte del grande capitolo della fisionomica, cioè noi abbiamo la possibilità di osservare il viso e comprendere lo stato energetico, lo stato emotivo, lo stato fisico di una persona. In particolare, fermando l'attenzione sull'orecchio, possiamo dire che per la medicina cinese corrisponde al rene, e qui è necessaria la seconda spiegazione. Il rene della medicina cinese non è il rene occidentale. Quando mi lascerai un minuto spiego che cos'è il rene in medicina cinese. Direi adesso. Benissimo, allora il rene della medicina cinese, come dicevo, comprende in parte anche il rene della medicina occidentale, ma è la nostra radice, la nostra forza strutturale, quello che ci permette di affrontare e superare le 10.000 difficoltà della vita, le difficoltà di tutti i giorni, cioè è avere una schiena forte, è avere una schiena dritta che ci permette appunto di andare avanti, di non farci schiacciare dalle difficoltà del momento, ma riuscire a osservare la vita a testa alta. Contemporaneamente sono anche i nostri progetti, è anche il nostro fatto, è anche la capacità di trovare dentro di noi la forza e la volontà per riuscire nella vita. Queste in pochissime parole, ovviamente. E ne approfondiremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. Intanto, dottor Corradin, posso chiedere ai miei ascoltatori di raccontarci anche la forma, l'aspetto delle orecchie, se sono grandi, piccole, a sventola, oppure no, con i lobi un po' cicciottelli o magretti. Ditemi che orecchie hai e il dottor Corradin vi racconterà molto anche di voi. 800 24 00 24. Ciao nonnina, ti ho portato un piccolo regalo. Nel cestino c'è una torta fatta in casa dalla mamma ed una bottiglia di vino. Mentre io passando nel bosco ti ho raccolto un mazzo di fiori. Guarda, ti piacciono? Grazie infinite, nipotina, che pensiero gentile. Oh, santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. Mentiva naturalmente il lupo. Professor Manfrin, buongiorno. Buongiorno. Otorino laringoiatra al Policlinico San Matteo di Pavia, perché la dimensione non ha alcuna relazione con la funzione. Non no, è che più direi. Uno ha le orecchie grandi più ci no, sente, come il lupo. Di no. Direi di no, direi proprio di no, è la struttura, piccolo o grande che sia, che è finalizzata a cogliere lo stimolo fisico del suono. Ecco, direi che questo è il suo ruolo. Professore, noi sappiamo che c'è un orecchio esterno, un orecchio medio e un orecchio interno, e più ci si avvicina verso il cuore dell'orecchio è la parte più preziosa, il cuore. Sì, sì, direi la parte più raffinata. Più raffinata. Più raffinata, pur essendo sempre un sistema sensoriale molto molto ben raffinato, molto ben strutturato, molto ben codificato, che non fa nient'altro che operare una conversione, un cambiamento di uno stimolo fisico come il suono in un segnale elettrico destinato al cervello. Anche se molti di noi le vorrebbero diverse, l'importante è che facciano bene il loro lavoro, nonostante noi facciamo di tutto per farle lavorare in contesti un po' difficili. Francesca? Francesca! Francesca, ciao! Alberto, mi hai fatto quasi paura, ma è il modo di gridare. Ma no, è che ti chiamo e tu non mi senti. Pensavo che lo facessi apposta. Ma in mezzo a questo rumore, come faccio a sentirti? Vabbè, allora, che cosa volevi dirmi? Se era tutto confermato per la cena di questa sera. Cosa? Professor Manfrini, inquinamento acustico, in un'ipotetica classifica dei nemici della salute del nostro udito, a che posto lo mettiamo? Direi nelle prime posizioni, sicuramente attualmente è diventato forse direi l'elemento principale della stress acustico di ognuno di noi, al di là insieme ad altri fattori come possono essere così dei farmaci o così delle malattie, direi che la quotidianità della... Si parla infatti di socioacusia a questo punto per indicare proprio il problema relazionale legato ad un costante bagno oppositivo nel rumore. La medicina cinese invece che cosa dice a proposito del rumore, dottor Corradin? Dove è avvertito, dove si fa sentire i suoi effetti? Beh, chiaramente c'è una grande relazione fra rumori e suoni. I suoni sono qualcosa che per la medicina cinese, i cinque toni, sono qualcosa che può riequilibrare in realtà l'assetto energetico di tutto l'organismo. I rumori toccano la nostra radice più profonda, toccano i reni della medicina cinese che corrispondono anche al cervello della medicina occidentale e tante altre funzioni, quindi c'è molta più analogia con la medicina occidentale di quanto si immagini. In realtà però, come dicevo, se questo è un aspetto, l'aspetto deleterio di questa funzione, dall'altro con i suoni, con i canti, con tutto ciò che è armonia, rappresenta in realtà un modo per armonizzare in profondità l'organismo. Quindi ci sono proprio questi due estremi, i rumori che nuociono a questa struttura molto profonda e i suoni invece che possono armonizzare tutto l'organismo, la musica in particolare. Professor Manfrin, stiamo nel rumore, ci sono delle ricerche che hanno messo bene in evidenza la relazione tra il rumore, l'inquinamento acustico e la salute del nostro udito. Sì, sì, il rumore sappiamo benissimo, ormai accertato e appurato, che non ha solo effetti uditivi dal punto di vista epidemiologico, quindi non comporta solo semplicemente la riduzione della funzione uditiva qualora ci si esponga eccessivamente, ma effetti anche extrauditivi che riguardano l'apparato cardiocircolatorio, riguardano il sistema nervoso centrale, riguardano l'assetto endocrinologico, insomma si parla proprio sì di malattia da rumore, da rumore acustico. Ecco. E quando mi posso accorgere che qualche cosa, il rumore oppure un farmaco, perché il nostro udito anche se perde qualche colpo, così lo diciamo noi in gergo, non si fa subito sentire, noi in qualche modo, un po' come succede con la vista, cerchiamo di superare queste piccole defaillance, cerchiamo di trovare un nuovo equilibrio. Professor Manfrin. Sì, sono strategie di sopravvivenza quando qualcosa non funziona, così come quando cala un pochettino la vista cerchiamo di avvicinarci semplicemente, quando non sentiamo, soprattutto in contesti in cui il rapporto, segnale, rumore, in un contesto in cui noi viviamo quotidianamente si sposta a vantaggio del rumore, cosa facciamo? Aumentiamo il segnale, ecco che allora aumentiamo le apparecchiature che ci circondano, che ci danno la musica, alziamo la voce fra di noi e tutte queste cose. Quindi su questi sono i segnali, quando ad esempio noi ci rendiamo conto che alziamo il volume della nostra TV, dobbiamo farci ripetere più volte la stessa cosa, perdiamo, vero, alcune parole, questo è il momento di farsi dare una controllata, professor Manfrin? Sì, direi di sì. Direi che una situazione standard è quella che sono i familiari, l'entourage, che identificano quasi la sordità del soggetto. In realtà questo può essere dovuto anche a tanti altri fattori, dipendendo dall'età, dal contesto, da tante cose. In realtà è il soggetto stesso che, se è sordo, se ne rende conto e viene lui a farsi vedere. Dottor Corradin, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci un po' la forma delle loro orecchie. Arrivano già tante richieste al 349-238-6666. Vogliamo iniziare a parlare delle orecchie a sventola, che certo sono per molti un cruccio? In realtà per la medicina cinese invece sono, beh, chiaramente quando poi sono eccessive sono un cruccio dal punto di vista estetico, ma in realtà le orecchie staccate dal cranio per la medicina cinese indica una facilità ai cambiamenti, la mancanza di grande legame con la terra natale, il fatto di potersi staccare dalla famiglia e quindi di poter viaggiare, e in poche parole l'indipendenza. Al contrario invece le orecchie molto attaccate indicano la necessità di pianificare la vita. Generalmente si tratta di un soggetto coscienzioso, talvolta in modo eccessivo, con grande legame con la famiglia, con la terra natale, che quando fa un viaggio di 20 giorni va bene, ma quando comincia, se deve cambiare luogo di ad esempio a causa del lavoro deve cambiare luogo dove abitare, diventa ansioso, gli manca un po' la terra sotto i piedi, ha bisogno, insomma, le orecchie attaccate al cranio indicano un grande legame con la famiglia, con la terra natale, e al contrario le orecchie sporgenti, le orecchie un po' staccate indicano invece al contrario la necessità, la capacità anzi di poter viaggiare nella vita e nel mondo a tutti i livelli di simbolismo in modo molto libero e senza grandi difficoltà. Michela ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno Michela, benvenuta. Buongiorno a tutti. Io volevo avere gentilmente un'opinione sulle orecchie, che sono una parte del mio corpo con cui gioco, che sono ancora molto morbide nonostante abbia 32 anni. Hanno proprio la cartilagine sia del lobo che della parte superiore molto morbide, ed è una parte di cui ciclicamente vedo anche che ci sono proprio una secrezione che poi viene naturalmente espulsa, cioè solo una volta nella vita mi è capitato che mi desse un problema, mentre invece soffro di più del fatto che ho un udito molto molto sensibile e per cui sono purtroppo spesso soffro del fatto che sento le voci molto alte, i rumori molto più forti, e quindi ecco, purtroppo vorrei a volte pensare di invecchiare per avere un po' meno, esatto, sentire un po' meno. Dottor Corradin, poi passiamo al professor Manfrin. Dottore, le orecchie, Michela dice, sono molto morbide nonostante l'età, beh, 30 anni, delle orecchie morbide, con questa cartilagine che si accartoccia anche al contatto, alla pressione. Sì, allora qui, ripeto sempre, stiamo giocando un po', perché in realtà bisogna avere il quadro globale, stiamo guardando un singolo aspetto cercando di fare una visione generale. Fatta necessariamente questa premessa, ci sono almeno due caratteristiche che devo ricordare. Allora, le orecchie, come dicevo, rappresentano il nostro rene, la nostra radice, la struttura più profonda, e sono collegate con la manifestazione del rene, poi è nel cuore, cioè che è la nostra capacità di andare nella vita e la sensibilità e la nostra capacità di realizzare la nostra vita. Quando l'udito è particolarmente sensibile, quando non si sopportano i rumori forti, beh, per noi, sempre nell'ambito di questo gioco, indica una particolare sensibilità ma anche una particolare vulnerabilità. Fra i due parametri più importanti nell'osservazione delle orecchie, o i tre parametri più importanti nell'osservazione delle orecchie, c'è da un lato lo spessore: le orecchie devono essere elastiche, devono essere relativamente spesse, non si devono vedere le vene in profondità, cioè non devono essere traslucide. Tutto questo indica una costituzione forte. Al contrario, orecchie piccole, orecchie di piccolo spessore, indicano una costituzione più debole. Questo non significa assolutamente nulla, ovviamente, certo, ripeto, sempre nell'ambito della medicina cinese, indica che bisogna fare particolare attenzione agli eccessi. Poi le secrezioni per noi sono espressione di umidità, che significa eccesso di o un'alimentazione scorretta oppure eccesso di pensieri, cioè l'umidità, questa caratteristica interna, questa energia che tende a ristagnare, che indica da un lato una notevole sensibilità e quindi la necessità anche di difenderci dagli stimoli eccessivi che ci derivano dal mondo esterno, e dall'altro a volte questa incapacità di trasformare queste informazioni che ci arrivano, queste stimoli che ci arrivano dal mondo esterno, incapacità di trasformarli per farli diventare qualcosa dentro di sé. Se lo dovessimo dire in una sola parola, la necessità di difendersi un po' e di non prendere stimoli particolarmente forti. Grazie dottor Corradin. Professor Manfrin, sollecitati dalla telefonata della nostra ascoltatrice, molti ascoltatori mi dicono: sì, anch'io ho un udito molto sensibile, questo mi dà fastidio, è un problema? Il termine tecnico è l'iperacusia, in poche parole, che di solito ha un duplice significato da un punto di vista clinico occidentale. L'iperacusico è quello che risponde esageratamente a degli stimoli apparentemente normali, e questo può essere espressione aspecifica di un atteggiamento, di un habitus emicranico. Cioè, chi è emicranico, così come ha fastidio alla luce, a altre cose e altri stimoli fisici, può essere un soggetto che in certi momenti della giornata può avere dei fenomeni di iperacusia, cioè non tollera i suoni. Un conto però è il fastidio che il suono può dare qualora il soggetto invece sia già sordo, cioè abbia già una sua sordità e i suoni gli danno molto fastidio. Questo è un altro fenomeno che è tipico della sofferenza della chiocciola del recettore, che si chiama fenomeno del recruitment, che è una cosa un po' particolare. Un'altra situazione invece estremamente sui generis è che l'iperacusia sia legata ad una piccola anomalia, una piccola malformazione dell'orecchio interno, in cui oltre alle due normali finestrelle che servono per muoversi, per trasmettere le onde sonore, ve ne sia una terza e quindi il sistema all'orecchio interno sia più cedevole. Sono soggetti che sentono molto di più, addirittura hanno dei fenomeni di sollecitazione globale dall'orecchio interno, per cui hanno il cosiddetto fenomeno di Tullio, così si chiama, perché Tullio era un medico. Ah, era di Bologna, un medico, sì. Sì. In cui ad esempio uno stimolo sonoro anche intenso può causare addirittura delle vertigini, perché coinvolge anche il labirinto posteriore. E noi dopo Tullio andiamo da Leo, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno a lei. Devo farle complimenti e poi devo dire che sono contentissimo che mi avete chiamato e posso sentire con le mie orecchie la sua bellissima voce. Una domanda al dottor Corradin, perché mi affascina molto il discorso della medicina cinese. Sì. Ed era questa: siccome faccio il mio caso personale, io ho una, diciamo, una simmetria dell'orecchio, cioè quando mi guardo allo specchio vedo che l'orecchio destro è diverso rispetto all'orecchio sinistro, cioè nella parte alta è leggermente a sventola, chiamiamolo così, però non è proprio a sventola, però è leggermente diverso. Quindi volevo chiedere al dottor Corradin se c'era un discorso legato chiaramente alla medicina cinese che spiegasse questa simmetria tra le orecchie, dato che il discorso era legato al rene, eccetera, eccetera. Se c'era e certo, grazie. Qualcosa di... Grazie a lei. Grazie. Dottor Corradin. Come sempre, ripeto... Non possiamo, non... certo. Ecco, fatta questa premessa... Fatta la premessa, nell'ambito dei nostri giochi dobbiamo sempre ricordare una cosa, che per la medicina cinese è possibile osservare nel viso lo status di tutto l'organismo e con la fisionomica energetica anche in qualche modo prevedere il futuro, o meglio vedere quella che è la predisposizione. Allora possiamo dire che l'orecchio sinistro nell'uomo corrisponde ai primi 7 anni di vita, ciò che un individuo ha subito nei primi 7 anni di vita. L'orecchio destro sono i secondi 7 anni di vita, cioè l'orecchio sinistro nell'uomo, nelle donne è esattamente il contrario, indica quello che è lo stato, quello che è stata la vita del nostro ascoltatore da 0 a 7 anni, mentre l'orecchio destro indica quello che è stata la vita del nostro ascoltatore da 7 a 14 anni, ripeto, nelle donne il contrario, quindi necessariamente diversa. Ciò che abbiamo vissuto nel primo periodo della vita ovviamente non è quello che abbiamo vissuto nella seconda fase. Questo per dire che per la medicina cinese ci sono cicli vitali che durano 7 anni, le orecchie indicano i primi 2, rispettivamente nell'uomo i primi 7 anni a sinistra e i secondi 7 anni a destra. 800 24 00 24, restate con noi, andiamo a sentire i mercati a proposito di udito, poi il meteo e poi di nuovo venite a sentire qui come prendervi cura della vostra salute e soprattutto del vostro benessere insieme al dottor Corradini, al professor Manfrin, e parleremo anche di auricoloterapia, quindi rimanete con noi. Essere e benessere. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Non a caso ho scelto la Vie en Rose, perché facciamo un saltino nel tempo e andiamo in Francia. Adesso scoprirete perché. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Ceccarelli, ricercatore confermato e specialista in anestesia, rianimazione, fisiopatologia e terapia del dolore di Padova. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Noi continuiamo con lei a parlare di orecchio, che è una mappa strategica per chi, seguendo la strada del medico Paul Nogier, appunto francese, applica l'auricoloterapia. Ma dottore, come possiamo definirla? Una tecnica, una terapia, l'agopuntura dell'orecchio? Ma si potrebbe definire una etnomedicina. Ovvero una medicina che ha la sua origine, la sua pratica, diciamo, negli egiziani, e poi viene affrontata e trattata da Ippocrate, un medico del 400 avanti Cristo, fino anche al 1000 da Avicenna, un famosissimo medico arabo, e poi dal nostro Antonio Valsalva del 1700. E quindi ha una tradizione molto antica che riguardava la cauterizzazione di punti e zone dell'orecchio per in genere curare dolore e disturbi. Ecco, questa etnomedicina viene affrontata scientificamente da un medico francese di Lione che si chiamava Paul Nogier e che ha fatto una scuola che si chiama GLEM e che ha individuato nell'auricolomedicina un utile complemento all'agopuntura. Anche lui era un medico agopuntore e quindi ha individuato sul padiglione auricolare un fetto rovesciato, cioè come se ci fosse sul padiglione auricolare sia anteriore sia posteriore la proiezione di punti che sono correlati con zone o funzioni del nostro organismo. E quindi è iniziato questa pratica dell'auricoloterapia che ha avuto sviluppi. Oggi ci sono molti ricercatori, gli stessi ricercatori cinesi hanno approfondito dal punto di vista scientifico questa pratica e si sta delineando una disciplina di notevole interesse clinico. Senta, dottore, deve essere comunque fatta da un medico, vero? In Italia. Certo, ovvero se noi utilizziamo l'ago, l'agopuntura è materia medica, sì, e quindi noi dobbiamo prima fare una diagnosi, e la diagnosi è una caratteristica solo del medico. Poi ci sono altre figure che possono fare un massaggio auricolare, e allora possono essere per esempio i fisioterapisti e altre figure che in Italia non ci sono, ma in Francia ci sono, in Germania come gli Heilpraktiker tedeschi, e da noi sono i fisioterapisti, i massofisioterapisti, che possono solo fare del massaggio auricolare, quindi perseguire il benessere. Dottor Ceccarelli, abbiamo detto che è una mappa, possiamo vederlo così, lei ci ha ricordato la forma del feto rovesciato, però succede un po' per l'orecchio quello che succede anche per la riflessologia plantare, cioè andando a stimolare tramite modalità diverse, con il massaggio o con gli aghi alcuni punti, si possono trattare una serie di disturbi, ma vorrei sapere quali, mi sembra... Essenzialmente l'auricoloterapia viene utilizzata nella sua grande maggioranza per la terapia del dolore, il dolore somatico, quindi il dolore articolare, il dolore muscolare, e si sta caratterizzando sempre più per un tipo di dolore molto difficile da curare, che è il dolore neuropatico. Molti pazienti sanno, per esempio, la nevralgia postherpetica dopo il fuoco di Sant'Antonio cosiddetto, oppure per esempio il dolore nelle persone amputate o nei diabetici che hanno dovuto subire delle amputazioni. E questo è, diciamo così, la funzione maggiore dell'auricoloterapia. E poi ci sono altri impieghi molto molto recenti ma molto promettenti, che sono per esempio tutte le addiction, e quindi la terapia antifumo, cioè per aiutare le persone a smettere di fumare, per eliminare il cosiddetto craving, cioè quel desiderio imperioso che assale i fumatori e che non gli permette di smettere. E poi la dieta, cioè il riuscire a sopportare una dieta un po' rigida, diciamo, perché quando bisogna calare i primi chili, bisogna, in genere i pazienti fanno molta fatica a sostenere una dieta. L'auricoloterapia permette accompagnare queste facilita questo stato un po' di sofferenza psichica, insomma, ecco. Dottore, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato nell'auricoloterapia. Torneremo sicuramente su questo argomento. Vedo arrivano tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori che mi chiedono tutti i disturbi che possono essere curati. Dedicheremo sicuramente una puntata. Intanto la saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. Ivone, dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccomi, buongiorno. Noi la sentiamo in questa puntata tutta dedicata all'orecchio e all'udito. Eccoci a lei. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, volevo solo, sentivo prima il discorso del dottore che per le cure, cioè per il discorso della medicina cinese, no? Sì. Io avrei l'orecchio sinistro a sventola, abbastanza a sventola, e sono nato anche con un rene non più al suo posto, sempre quello sinistro, ma vicino alla vescica, in basso, no? Ha una correlazione. È stato un caso? La domanda di Ivone mi permette di chiedere al dottor Corradin di rispondere ai tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo. Se per la medicina cinese l'orecchio è un rene, si possono spiegare anche magari lavorando su alcuni punti strategici dell'orecchio dei problemi renali secondo la medicina cinese? Allora, come abbiamo detto prima, lo ripeto, il rene della medicina cinese è anche il rene occidentale, però ha molto a che fare anche con altre caratteristiche, col sistema nervoso centrale e via dicendo. Quindi da questo punto di vista, fra il rene occidentale e l'orecchio la relazione non è strettissima, anche se per noi esiste. Però volevo recuperare un attimo e ricapitolare. Allora, stavamo dicendo, Le orecchie sono in relazione con il rene della medicina cinese, cioè con la volontà, la determinazione e la capacità di sopportare nella vita. La presenza di orecchie piccole tende a indicare una costituzione un po' più debole, il soggetto tende ad essere un po' più conformista. Al contrario, le orecchie grandi indicano una costituzione più forte, si tratta spesso di un soggetto coraggioso che a volte però può tendere all'azzardo. Le orecchie spesse indicano una facilità nella trasformazione della propria vita e in particolare una digestione forte, una caratteristica in generale forte. Il nostro ascoltatore ci diceva le orecchie un po' sventola, le orecchie a sventola, le orecchie sporgenti indicano questa facilità ai cambiamenti, quando al contrario le orecchie attaccate alla testa indicano un soggetto più coscienzioso, talvolta in modo eccessivo, e la necessità di pianificare la vita. Quindi per la medicina cinese la relazione sicuramente esiste, per la medicina occidentale sicuramente la relazione è più debole. Professor Manfrin, torniamo a lei, perché il nostro udito va sicuramente preservato, tutelato. C'è un po' questa credenza che con gli anni il nostro udito si affievolisca un po'. E si può prevenire questo oppure dobbiamo rassegnarci? Ma direi che al momento attuale dobbiamo accettare le cose come stanno, sapendo che la cosiddetta presbiacusia, cioè il cosiddetto invecchiamento della funzione uditiva, che è di tutto l'orecchio, compreso anche le sue parti più nobili, più importanti, più neurologiche, cioè quelle centrali, vengono codificate attraverso un assetto genetico e familiare che progressivamente si viene a consolidare nella nostra struttura uditiva. Ovviamente su queste si sovrappongono fattori esterni e noi possiamo lavorare sui fattori esterni, questo sì, possiamo fare della prevenzione. Ad esempio? Ad esempio il lavoro, l'ambiente del lavoro, l'utilizzo di determinati farmaci, le abitudini voltuarie, anche il cacciatore, faccio tanto per intenderci, con adeguati provvedimenti di tipo protezionistico, tipo proteggere le orecchie quando si sta in ambiente rumoroso, penso anche ad esempio anche al divertimento, la discoteca, che i ragazzi tanto fa piacere. È chiaro, se sono esposizioni occasionali, anche intense, danni non ce ne sono, certo. No, quello che conta è l'esposizione continua e costante ad un ambiente rumoroso, e quindi c'è tutto l'aspetto sociale e lavorativo nel quale il problema deve essere inserito. Giovanni da Lucca, buongiorno. Ho completato la trasmissione, grazie di avermi richiamato. Dunque, ho 37 anni e ho questo piccolo problema: non riesco a seguire bene le conversazioni in ambienti molto rumorosi, come non so, un bar o un ristorante. Capita ad esempio che una persona a mia destra mi dica una cosa, io non capisco, cioè lo sento ma non capisco cosa mi dice, mentre le persone alla mia sinistra, che sono più lontane, riescono a capire bene. Volevo sapere, ho fatto le prove audiometriche in un negozio di apparecchi acustici, è risultato che ho un udito del tutto normale. Non sapete da cosa dipende e se mi consigliate una visita da un otorino. Grazie a Giovanni. Professor Manfrin, tante volte avvertiamo un problema ma gli esami ci dicono tutto a posto. In questi casi che si fa? Questa è una bella... Uno non ci pensa più. No, direi io. Esatto, potrebbe essere una soluzione. No, in realtà gli esami hanno tutti una logica, gli esami audiometrici devono rispondere ad una domanda che l'audiologo, l'otorino laringoiatra, deve porsi nel cercare di spiegare il sintomo del paziente. Nel caso del radioascoltatore di prima, direi che bisogna vedere, innanzitutto l'esame va fatto in un contesto clinico, perché ci sono più esami che hanno, ripeto, una sensibilità, una specificità diversa. Non basta un esame audiometrico tonale, che è l'esame di screening di base che si fa anche nei negozi all'esterno. Quindi direi che comunque merita approfondimento, anche perché certe volte si può sentire e non capire, il problema non è nell'orecchio, è nelle vie centrali, nelle vie neurologiche, quindi questo va individuato. Ecco. Adesso noi andiamo, a proposito, a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo di nuovo insieme. 800 24 00 24 se volete intervenire, ascoltarci, raccontarci di voi. Essere e benessere. Che era, succhimi l'orecchio, mi piace. Ma dai, adesso, ma cosa dici? Che era, come ti amo. Ma in questo momento. Succhiami l'orecchio che mi piace. Che bambinone. A sventola, attaccati, grandi, piccoli, insomma, dottor Corradin, l'orecchio possiamo dire è comunque una zona molto sensibile, direi un po' intima. Lei è d'accordo, dottor Corradin? Assolutamente sì, e accanto a quanto dicevamo prima, come dicevo, quindi l'orecchio è la nostra capacità, è l'espressione in superficie della nostra profondità. Ci mancava da aggiungere proprio questo paio di cose, il lobo. Se tutto l'orecchio in rapporto con il rene della medicina cinese, il lobo è in rapporto prevalentemente con un'altra funzione che si chiama milza pancreas, che ovviamente non è la milza pancreas della medicina occidentale, è comunque tutta la trasformazione, è il legame con la propria famiglia, quindi con la propria terra natale, con la propria famiglia. Quindi se i lobi sono poco presenti, indica un grande attaccamento alla terra natale, alla famiglia. Al contrario, lobi carnosi indicano questa milza pancreas, questa terra, come la chiamiamo noi, forte, quindi la capacità di viaggiare molto senza avere la nostalgia di casa, della propria famiglia. E poi un ultimo aspetto su cui volevo richiamare l'attenzione è la dimensione delle orecchie, dove le orecchie sono più ampie. Di solito se le orecchie sono più ampie in alto si tratta di soggetti emotivi, se sono più ampie al centro si tratta generalmente di soggetti atletici, e proprio per venire a quanto dicevi tu un istante fa, se sono più ampie in basso indica la nostra capacità di ascoltarci, indica la nostra capacità di sentire la profondità dentro di noi. Insomma, per la medicina cinese l'orecchio è il rene, e il rene è il mistero, ed è la nostra capacità di scendere nella nostra profondità per sentire il significato della nostra vita. Mi fa un po' sognare, dottor Corradin, ma voglio salutare la mia amica, la professoressa Simonelli, che è in linea con noi. Buongiorno. Ciao a te, ciao al collega, veramente sì. Sessuologa e clinica dell'Università di Roma, Chiara, anzi professoressa Simonelli, comunque l'orecchio, dice tanto. Beh, sì, dice delle cose che appunto anche non sapevo, che ci ha spiegato Corradin, ma da noi, ecco, come dire, nell'area della quale mi occupo, beh, l'orecchio che compare anche poi in molti film, romanzi, eccetera, è anche all'interno, come dire, di un repertorio di scambio erotico, insomma, è un gesto, quello del bacio sull'orecchio, del sussurro all'orecchio, che è anche qui, diciamo, capace di suscitare in molte persone un brivido d'amore, insomma. Quindi l'orecchio c'è sia come organo che come funzione, perché anche le cose che possono essere dette di un tipo o di un altro, naturalmente, sono in grado di aprire la porta dell'erotismo. E infatti si dice, mi ha sussurrato all'orecchio e mi è venuta la pelle d'oca. Forse è più per una cosa che viene più a noi donne, perché gli uomini hanno bisogno più della vista, no? Si innamorano magari di una voce e poi però no, si tornano indietro. Sì, ci sono mille racconti che fanno i ragazzi di tutte le età, i maschi intendo, di essersi, come tra virgolette, fatti prendere, innamorati da una voce, non so, una volta c'erano le centraliniste, eccetera, poi di aver fatto salti mortali per incontrarla, e naturalmente il primato della vista, poiché non si sceglie una persona per la voce, naturalmente, la voce è un potente rinforzo laddove la scelta sia stata, diciamo, fatta in maniera più tradizionale, quindi valutando anche altri aspetti, no, della persona. Quando questi aspetti ci sono presenti, e quindi la persona piace, se poi la voce è di un certo tipo, è suadente, è capace di modularsi, diventa un afrodisiaco indubbiamente. E soprattutto se una persona è capace ad avvicinarsi al nostro orecchio, che rimane, quindi c'è questa vicinanza, questo contatto, e lo fa con garbo e con charme, Chiara, è fatta. È una carta vincente, diciamo, in un momento in cui tutto è fatto con fretta, tutto va un po', come dire, al sodo, all'essenza, in una sorta di consumazione poi, no, dei rapporti, quindi ci si avvicina, si usa, si getta. Beh, insomma, chi è ancora capace invece di gesti di avvicinamento, di quello che chiamiamo, forse banalizzando un po', il corteggiamento, ma insomma la valorizzazione dell'altro, l'intimità, perché è varcare nella prossemica questo avvicinamento che insomma con un estraneo ci dà fastidio, no? Insomma, possiamo dire che orecchie per intendere intenda. Mi piace questo, Nicoletta, è molto bello. Un abbraccio alla professoressa Chiara Simonelli, grazie per essere stata con noi, Chiara. A voi tutti, buona giornata. Professor Manfrin, a proposito di parole sussurrate, a volte avvertiamo un suono simile ad un sussurro nel nostro orecchio, eppure nessuno ci sta sussurrando nulla, anzi capita soprattutto quando siamo immersi nel silenzio. Chi ha sperimentato questo disturbo lo descrive anche come un fruscio, una cascatella, un ronzio. In una parola tecnica sono gli acufeni. Pronto? Sì, professore. Sì, ho problemi sulla linea. Ecco, vede. Parlavamo degli acufeni, sì. Stava parlando. Sì. L'acufene, parafrasando, adesso non ricordo più chi, è una cosa estremamente importante dal punto di vista sintomatico per i pazienti. Innanzitutto perché comporta la perdita del silenzio, che è un momento fondamentale Eccoci, professore, c'è ancora? Sì. No, Laura Manossi mi diceva subito, è caduto. No, lo sentiamo ancora, quindi è in linea. Diceva la perdita del silenzio che è fondamentale, certo. Dietro c'è tantissime spiegazioni, alcune più accreditate, altre meno accreditate, qualcuno li imputa nell'origine e fa una stretta analogia con il dolore per l'orecchio interno, altri parlano... Stavolta la linea, proviamo a richiamarlo. E intanto volevo chiedere al dottor Corradin se la medicina cinese ha una risposta per gli acufeni o almeno una lettura. Sì, no, esiste sia una risposta sia una lettura. Fantastico. Io mi occupo di questo abbastanza frequentemente, ovviamente niente fa miracoli, però sicuramente l'agopuntura in modo particolare in una buona percentuale di casi rappresenta appunto un modo per trattare gli acufeni, ne ho trattati molti. Poi ovviamente c'è anche una lettura, è bellissimo quello che diceva il professor Manfri, no? la mancanza del silenzio e quindi esiste anche una visione psicosomatica della cosa, la capacità di fare silenzio dentro di noi, a volte non abbiamo questa capacità. Io non voglio dire che ovviamente una cosa sia solo psicosomatica, certo. Assolutamente, molto spesso le cause psicosomatiche magari non ci sono, però a volte invece sono presenti ed è, ripeto, come mi piaceva moltissimo quanto diceva la collega sessuologa precedentemente, è la nostra intimità, il rene è la nostra intimità, è la nostra sessualità, è la capacità di scendere dentro di noi, è la nostra capacità di trovare l'altro attraverso di noi, attraverso la sessualità, e le orecchie rappresentano una parte di questo. Abbiamo ripescato il professor Manfrin. Professore. Sì, ci sono. La medicina cinese, ci raccontava il dottor Corradin, non so se se l'hai perso, ma ha una lettura e anche un aiuto per chi soffre di acufeni. Molte persone girano da un medico all'altro. Mi dia due indicazioni chiare prima di salutarci per le persone che avvertono questo disturbo che ruba proprio il silenzio. Ma da un punto di vista così audiologico è fondamentale capire se dietro all'acufene c'è un qualcosa di identificabile. Purtroppo sappiamo che più del 50% di questi acufeni sono idiopatici, cioè noi abbiamo dei limiti e non riusciamo a capire da dove prende origine. Devo dire che recentemente c'è stato molto progresso per quanto riguarda la terapia dell'acufene, parlo in particolar modo della terapia con i suoni, sì. Del suono, e quindi tutti ovviamente conditi e accompagnati da meccanismi di carattere terapeutico, psicodinamico, psicologico, con un grosso supporto. Per cui non bisogna abbassare la guardia, il paziente acufenopatico deve farsi vedere, deve farsi inquadrare, deve farsi supportare e deve fare anche spesso un atto di fede verso qualsiasi tipo di medicina, sia la nostra che quelle alternative. Complementari, come abbiamo parlato oggi della medicina cinese. Grazie professor Manfrin per essere stato con noi. Grazie al dottor Corradin, che come avete notato è uno degli esperti del nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere, che ogni giorno ci insegna a prenderci cura di noi. Grazie a voi per averci seguito. Buona giornata, a domani. Essere e benessere.